Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sargante e il traghettatore, ben trovati. Quella che si è appena chiusa è la settimana europea per la riduzione dei rifiuti. È un programma che si chiama Life Plus, è promosso dalla Commissione europea, molto partecipata. Più di 5.300 azioni in tutta Europa, e l'Italia si è fatta sentire con quasi 1.000 azioni in giro per le città. L'anno scorso erano 900, a conferma della particolare sensibilità del nostro paese. E sul tema della sostenibilità vi segnaliamo un evento particolarmente importante e mondiale che si tiene a Milano mercoledì e giovedì, che è il Forum on Food and Nutrition di Barilla, il Forum Mondiale sull'Alimentazione. Vogliamo trattare un aspetto di questo evento importantissimo, che è una specie di concorso per giovani e brillanti idee sostenibili sull'alimentazione. Fra i 10 candidati a premio finale c'è Federica Marra della Leiden University. Buongiorno Federica. Buongiorno. Italianissima che studia nei Paesi Bassi. Il tuo progetto, che si chiama Manna dal nostro tetto, è uno dei 10 candidati ad essere poi eletto vincitore assoluto. Come funziona? Che progetto è? Allora, il mio progetto, diciamo che ruota attorno a due concetti fondamentali. Il primo è quello di migliorare il rapporto tra l'alimentazione e la sostenibilità all'interno delle città, riducendo l'impatto ambientale di queste grandi città, facendo partecipare alla produzione agricola la propria cittadinanza, e quindi contemporaneamente fare riscoprire ai cittadini il valore culturale del cibo, in modo da restituire quindi alla comunità la tradizione e la convivialità. Tutto questo cercando un metodo un pochino più efficace dei classici eventi di sensibilizzazione, quindi facendo partecipare i partecipanti a questo progetto tutte le fasi di vita di un prodotto, dalla coltivazione al consumo, che verrà svolto in palazzi urbani abbandonati, quindi reinventati, utilizzando tutti i piani, principalmente creando un orto sul tetto di questo palazzo, dove verranno prodotti insomma delle verdure, delle frutta, che poi verranno portati nelle cucine e nelle mense sottostanti, dove verranno preparati dai partecipanti, che saranno giovani italiani e non, verranno cucinati da loro stessi, in quanto costituiranno proprio i pasti che loro poi andranno a consumare durante il loro soggiorno nel palazzo, e poi il resto mangiati, digeriti, e tutto il processo, e verranno anche venduti poi, certo, al negozio. No, dicevo che tanto più importante questo processo di sensibilizzazione, che passa attraverso questa attenzione spasmodica che hai ben rappresentato, tanto più importante, dicevo, quanto poi viviamo in un paese che è di grande, dove c'è uno spreco incredibile. Ne abbiamo parlato spesso dello spreco alimentare. Italia, come Giappone, che ci dicevi fa parte del tuo studio, della tua tesi, c'è uno spreco veramente altissimo di cibo. Sì, viene sprecato all'incirca un terzo della produzione e dell'importazione di cibo in tutti i paesi industrializzati, più o meno la situazione è simile. Si spreca molto denaro e molte risorse in questa cosa. Tanto più assurdo quanto poi in molte altre parti del mondo, gran parte forse del mondo, si muore ancora di fame. Grazie Federica, esatto. Grazie, bocca al lupo per i tuoi studi, e anche grazie, perché giovedì potrebbe essere una giornata particolarmente importante per te. Alla prossima, grazie. Alla e buon prossima. Lavoro. A fianco dei bambini autistici, una campagna Carglass dedicata ai bambini autistici, che ha come titolo Come i delfini, una spinta verso l'altro, che è la Fondazione I Bambini delle Fate. L'intero ricavato delle riparazioni, quindi dei tergicristalli, dei vetri, delle automobili, vengono devoluti assieme alle ore di lavoro dei dipendenti della catena Carglass, saranno devoluti in beneficenza per sostenere il progetto a favore dei bambini autistici. Questa è un'iniziativa per Fondazione I Bambini delle Fate. È tutto per oggi. Nella pagina Facebook cliccate su Mi piace ferribot_radio24. Grazie in redazione ad Anita Panizza, in regia a Valeria Bernardi. Alla prossima.